Hai capito, Natali? Ce l'aveva in mano. Questo Gianni è sempre imprevedibile, gatta. Adesso non dice che ce l'aveva in mano, esce male, capito? Si è sopravvolato, Natali. Sì, perché c'è anche il dito veloce, capito? C'è il grilletto veloce. Ho detto, Natali, ha detto che ce l'aveva in mano Gianni. Era questo Gianni, io non lo so, mi state portando sulla brutta strada. Questo Gianni che ce l'ha in mano, mi dice, Ma non è Adriano che ce l'aveva in mano? Tutti i gatti maliziosi sono qui, Comunque vai bene adesso, Gianni. Era un po' di polvere, come non lo sta bruciando, era molto fermo questo apparecchio, questo è il 3009, e gli ho messo un microfono che avevo costruito io, capito? Oh già, meno male che non c'è il video baracchino, sennò avrei messo la foto tua mangiando la pazza. ma già lo sai che io posso contraccambiare. Lo so, ma io avrei messo la portata e avrei oscurato. Io lo vedo a Gianni che ci sta sbranando una pazza. Natalino, stai cominciando a vedere male. Io sono gugucato. Perché le pazze lo puoi avere vicino al comodino? Sto cos'è un androne, gatto. Ma io ho camminato col cane, ho camminato un bel, tu lo sai benissimo, sono stato operato da poco, quindi poi mi devo riposare un po'. Cava, e c'è conferma. Vabbè, tutti invalidi, no, diciamo, Fai mangiare a tria, no, anche Manuele che è giovane, di no più di giovane di voi, anche lui è invalido. C'è una domanda di validità qua. È invalido, ma pensione ne prendi, Manuele? Magari, devo trovare anche la pensione. Vai a lavorare che sei giovane tu. Dai, così paghi le tasse per lui. Ma hai sentito che i pensionati hanno superato i lavoratori? Ma adesso fra, Manuel, dolori ne hai tu? I dolori ce li ho sempre, però rispetto a prima già sto bene. Vabbè, riesci a dormire, anche io adesso si sono alleggeriti, riesco a dormire la notte, prima non dormivo, dai, ma dolori baro. No, prima anche io non riuscivo a dormire, ma neanche a camminare, come facevi tu, ti ricordi? Facevi due passi e ti dovevi sedere, io ero così uguale. Lo so, sono dolori furti solo, non auguro a nessuno di provarli, adesso un po' si sono alleviati i dolori, poi sto facendo molta fisioterapia da me stesso, adesso lunedì andrò dal dottore e continuerò a fare fisioterapia magari qualche centro, però fino adesso me l'ho fatta io e sto già camminando bene. Scusate un attimo, una panico vera con le pastiglie, veramente che ci pare durori. Ma ci vuole anche la pompa da 25 cavalli per pulire il caminetto. Allora bisogna di l'acqua a macino, chissà, sì. Io mi sa che stasera faccio una bella pasta asciutta. Ah, io faccio il salto del pasto stasera, c'è un grema. Come dire, mangiato bene pomeriggio. Ma porro al forno io. E te? Io ho mangiato pasta al forno. Spana, vai. Scusa Manuel, ma noi riprendi Camberone, hai detto, a farai da ribronzi, A cari, cazzo, da cari si la dici a cagare Camberone. E te? Ma vabbè, ha detto Toni, scendete tutti che tutti pronti, i gamberoni sono già fatti. Ha detto, scendete a Camberone però, non scendete il corpo, sennò poi non vede più mai me. Tonino! Ehi, ma l'hai guardato quel video che ti ho mandato? Cicottino, ascolta bene, sembra che ci sia la voce di Manuele, infatti pensavo che fosse lui quello che parlava, sembra Manuele, se l'ascolti bene lo vedi. Cazzo Cicottino. Manuele, adesso lo mando a te. Sì, ma ho capito quale ti ha mandato, con i guantoni. No, di quattro europea. Allora un altro qua. Ha sfidato questo di Porto Torres, in alto a Lorigis. Ah, dentro al bar. Oh, è carina. Io ne ho visto uno che era dentro al bar, dopo da fuori con i guantoni. Ma dice che curia chi sono? Maga, c'è così. A furarsi. Mi te lo mandate, ma lo è. A furar già era bravo. Ma lo è, sembri che sei tu che stai dicendo roba dal terrazzo, sembra la voce tua. Ascolta, l'ottori, poi mi fai sapere. E se non è Emanuele che dice di cosa. Avanti, Franco, riprendi. Stavo dicendo, Emanuele, che problemi ha avuto? Perché di salute? Ha avuto più o meno l'operazione che ho avuto io, però lui l'ha messo di fianco, a me era anzi, me l'ha fatto tutta il cesario a me. Ma quell'intervento che eravate partiti assieme, se non sbaglio? Sì, la prima volta io ho fatto l'ernia e mata del disco e lui ha fatto tutto l'intervento completo. Poi sono partito dopo 3 mesi, io da solo, e ho fatto l'intervento che me l'ha fatto Emanuele. Ma già mi ricordo qualche tempo fa, dai, dovete fare l'intervento tutti e due. L'anno scorso a gennaio, io ho fatto gennaio e poi ho fatto aprile. Minchia, già un anno è passato, lo so. Nuovo al tempo. Comunque tiro, sono tranquillo anch'io, cammino bene, un'altra cosa. Vabbè, cammino bene da circa un mese a questa parte, perché purtroppo, dico purtroppo, un animale è passato col rosso, ma preso in pieno e camminavo dopo. Dopo l'intervento? No, meno male, non è mai dopo, io sono caduto per terra con lo scuterone. Io quando respiravo sentivo tac, tac, cercate come mi sono stesso. Non mi sei staccato qualche cosa, mi sono spaventato. Invece così, frattura scomposta della costola che ha fatto il matto al polmone, uno. Frattura al maleo e distacco del trapezio alla mano, altro che voi. No, ma sei avanta, cazzo allora. E comunque dai, siamo qua a combattere ancora. Ecco, e domani sono da mesi con le gambe giù con me, spero che mi pagani come Dio comanda, perché io le carmelle non le voglio. Speriamo bene allora, dai. Natali. Tonino, abbassa appena, con che microfono stai uscendo? Il mic, microfono suo originale. Pezzo di una radio. Oh, è del Galaxy che sto qua usando, eh. Lo sta vendendo uno, un Galaxy Tonino, 260 euro completo di tutto. Poi cosa ti dà che questo io? No, perché ho fatto al tavolo e la Galaxy si parte. Già, non vedi sopra che cose, ma vabbè, se vuoi fare scambio io posso dare una radio. No, che ricevo di là. Di là si ritrova già. Io ti dico da recuperare, che sto usando sul portatile io. Ma cosa mi può fare? C'è una cosa che va giù io? No, non esiste. Certo che io studio, non voglio più spendere niente, se ne spende lo spende per la parte come Dio comanda, e ma non per adesso, quando avrò diciamo le possibilità, per adesso andiamo normale, cauti, tranquilli. Avanti Franco, California. Franco è sacro cuore, non sei più. Sì, che c'è, Franco. Sì, se c'è qualche radiolina, Franco, delle pintas. Ho vintage, ho uno Jamitronic degli anni 50-60, non ho altro, a valvole. Beh, non la dai, fa. Ma già solo questa, non ne ho altre, mi. L'ho presa da un tipo che la stava vendendo insieme a un aspirapolvere. No, l'aspirapolvere non mi serve solo questa. L'ho dato la sistemata, non funzionava all'inizio, adesso funziona. Ho tolto tutto quanto, le valvole, le ho pulite, le ho rimesse. Ho fatto qualche scarica di assestamento e poi è partito. Ogni tanto lo accendo e basta. Quale c'hai con la pommata, c'hai? No, è squadrata, è GTX 5000, 40 canali, CB transceiver, Jamitronic. No, ma non CB, radio a valvole di quelle radio normali. No, questo è un CB, è a valvole. Ho capito quale stai dicendo, io pensavo radio normali della vintage. No, questa sì, è vintage, ma è un vecchio CB, dai, un vecchio baracchino. Io invece ho una radio di quelli degli anni 80, 70-80, quelli che si mettevano in America sopra la spalla, via ficcia. E quelli, ne uno della Daiva, ma non è proprio anni 80, è più anni 90. Ne aveva uno bello, mio amico, della Toshiba, cazzo una bomba, e l'aveva comprato da quegli americani che lavoravano alla Maddalena. Cazzo, ma era una cosa impressionante. E questo anche il frequenzile, il led, c'è tutto. Ma a bestiare, infatti l'ho messo a nanna, se lo metto fuori, domani, lo metto fuori, e lo accendo un pochettino. E il fatto è che a me la musica è mai in casa. A volte c'ho Alexa, io metto la musica e mi metto la musica a pizza. 7 a toccare l'uso a 3 minuti. Allora io ho un impianto vecchio degli anni 80 sempre, un impianto di fai della Technics. Poi intanto lo accendo sempre per non rovinarsi. La Technics lo prendeva su in via Marini, Mario Medua, Mario Rosari. L'ho comprato io da Giordanelli, poi invece l'amplificato l'avevo cambiato, l'ho preso a Olbia. Andà bene, sì, la bella musica si fa comunque, Mario. Andà bene. Allora, Gianni, ripeti. Ehi, comunque, Emanuele, l'ultimo del mese fanno il mercatino in Piazza d'Italia e lì ne vendono quanto ne vuoi di quelle radio vintage, ma non c'è che anche un vinile, le portano da Cagliari, dai paesi, da tutte le parti. Ce ne sono tantissime, specialmente dal Cagliaritano ne portano molte. Classica questa domenica, fine... prossima domenica. È l'ultima domenica del mese, l'ultima domenica del mese fanno il mercatino. Adesso non lo so se stanno sempre facendo, però io andavo tutte le domeniche, io lo sai cosa prendevo? Io prendevo dischi vinile, ero molto appassionato di dischi vinile, adesso ne ho, adesso un po' basta, cioè tutte le musiche che io ascoltavo da giovane, che ballavo, le ho tutte trovate, Risparco, cosa ti posso dire, Bee Gees, tutte quelle musiche lì le ho tutte trovate, sia 45 giri che 33 giri. Oh Gianni, oh, yeah. Adesso di radio come mi ascolti? Hanno cambiato il microfono. Ti ascolto bene, Torino, è forte. Ma con che apparecchio stai uscendo? Lo sei col Galaxy? Sempre Galaxy, perché mi ci noto. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Sì, ma c'hai qualche altra cosa? Cosa ci hai messo? L'ecco. L'ho tolto però. C'è un microfono, un altro microfono che ho autocostruito. E sarebbe? Cosa le vuoi chiamare? Mila Peroni, Dash, cosa ne so, Dreger? Mandami la fotografia. Vabbè, dai, aspetta. Che voglio vedere più o meno com'è. Ma da tavolo, eh? Noni, da sedia. Non si può fare il calcio dell'ala che si abbassola. Bubu, avanti, da salì. E dai, io vi saluto. E me ne faccio un ascolto che sto mangiando, dai. Ci sentiamo alle prossime. Grazie per le quattro chiacchiere. E ciao Natali, dai, ci sentiamo, buona carica quando la fai, rilancio tutto a Franco, Franco del Sacro Cuore, e poi farà girare, dai, avanti Franco. E capa, dai, ciao Natali, un abbraccio, alle prossimine, buona carica, avanti Emanuele. E ok, ciao Natali, buon quel Dio, buon quel e buona carica, buon tutto, dai. Ciao Natalia, buon coletti, buon carica, ci sentiamo solito il Correa. Dai, un attimo che faccio la foto, gliela mando a Gianni, dai. Chi se lo danno il più 3, a me non mi butti. Ma cosa dare il più 3 a Onnaggio, magari? Non ce l'hai il super side chi? Sì, Gianni, quello ce l'ho, ma non ho fatto gli attacchi, capito? La palla mi abbassi. Oh, yeah. Oh, Gianni. Eia. Ma i microfoni della Midland vanno bene per un apparecchio normale, tipo Galaxy, questi Samurai? Sì, vanno bene. Quelli della Midland normale, stai dicendo. No, adesso ho guardato sul sito della Midland, ci sono quelli amplificati, addirittura c'hanno anche l'eco. Li stanno scontati al 70%, mi sembra, ti vengono 9,90 euro, 10 euro. Davvero? Sì, entra sul sito della Midland, li stanno dando, non sapevo se prenderlo, a 4 poli e a 6 poli. Buono. E mi sa che se te l'ordini anche a me e poi te lo prendo, non c'è problema. Se te lo stai ordinando, ne dai anche una a me. Non so se sono compatibili, perché ci sono a 100 ohm o 50 ohm, non lo so. Dobbiamo vedere, no, forse di più. Forse sono 500 ohm o 1000 ohm, non mi ricordo, guarda. Perché stavo leggendo anche qualche... in un forum, e non è a tutti che vanno bene i microfoni, capito? Bisogna sapere se qualcuno li ha già provati. Adesso non ho il telefono, solo se è entrato sul sito proprio della Midland. L'ho mandato già, Impedenza dei microfoni è 500 ohm, quello dei microfoni normali, fra. Ecco, di quelli ci sono anche a 1000 ohm, che sono proprio specifici per certi apparecchi della Midland. Non te lo so dire quello, però io i microfoni che ho preso amplificati sono sempre andati bene. Quindi se si può scegliere, bisognerebbe prendere quello da 500, oppure mai quello da 1000 esce ancora più forte, non lo so. Gianni, l'hai visto? Non sei uscito in radio. Cosa? Non sei uscito in radio. Probabilmente ho premuto male, dai adesso. Ho detto, ti ho mandato la foto al microfono da sedia. Sì, vabbè, adesso guardo. Dai, non ridere, io faccio tutto per tutto, è un precompresso comunque. Comunque tra, confermi che la radio è migliorata così. Sì, sì, ripeto, anche troppo forte. Potresti anche parlare di un altro più lontano, prova a vedere. Guarda un po', adesso mi sono distaccato un 20 centimetri. Così è ancora meglio, guarda. È sempre forte, però rimbomba di meno. Buonasera. Buonasera, avanti. Ciao Gabino. Buonasera Tonino, buonasera a tutta la ruota. Buonasera, non ho capito, forse ho parlato insieme. Che è, Gavino? Sì, buonasera, buonasera. Sì, Gavino, Franco da parte mia, qui a Sacro Cuore, Monte Basso. Buonasera Gavino. Buonasera Gianni, buonasera Gianni. Gavino SP25. Manuele, bentone. E a te già ti arriva bene in radio? Sì, a voglia. Andà bene. E beh già, cosa c'è da dire? Quello è un microfono precompresso sicuramente, Torino. Di che apparato è quel microfono lì? È sicuramente un microfono precompresso, un po' pesante. No, sì, è delle SBE quello lì. Sono in radio, ma è regolabile la radio? No, negativa, ma è che è normale, No, no, non è normale, è precompresso. Tu la radio la puoi regolare dal mic gain, basta che tu abbassi il mic gain e regoli la radio. Comunque, ripeto, io posso fare gli attacchi, ho provato, ho visto, ho messo il sentito in cuffie, esce bene, e quindi l'ho lasciato stare, dai. Sembra un microfono amplificato, sembra un microfono amplificato messo a 10, no, a 1, no, a 10. Addirittura. Eia, dalla a me quello lì. E a te, capì, buona radio mia. Sì, Tony, buona, buona, buona, ti ascolto benissimo, ti ascolto benissimo, ti ascolto a tutti bene. Ascolto a tutti, bene, bene, bene. Vabbè, io sarò il più piccolo perché sto usando un microfono normale, Gavi. E anch'io sono più piccolo. C'è un piccolo piccolo, qua ci devo trovare un microfono che vada bene. Mi stava dicendo Franco che ci sono degli sconti grossi sui microfoni. Adesso ci faccio un pensierino, me lo prendo uno. Se Franco lo prende, poi mi fa sapere e me lo prendo anche io. Un MC60, prenditi già. Non c'ho apparecchio, cosa me ne faccio dell'MC60? Mi colleghi tre cavi, lo puoi collegare anche al baracchino. Già lo so, puoi mettere le batterie, già lo so, però sì, è bello come microfono, anche diciamo esteticamente è molto bello. E poi anche performante. E poi anche performante, altrimenti ti metti quello che sto usando io, l'MC80 e sarà grande. Quando avrò quegli apparecchi me lo comprerò, dai. Qua ci stanno bene dei microfoni per baracchini, proprio dedicati, dai. Per la mia voce l'MC60 è come se non ce l'avessi, non mi rende a me. Sì, già rende, già rende, già. La tua voce è squillante, già l'esalta, già l'esalta. Ti prendo un balastatic. Ce l'ho la statica, ce l'ho. La statica ce l'ho nel... come si chiama? Nel Royce ce l'ho la statica. E allora ti fa la conversione al 3009, ti fa un pezzo di cavetto, ti prende una femmina, è un maschio, ti fa la conversione, lui usa anche lì. E là, è come qua, sono ritornato. Ehi Antonio, dai, magnato hai. Già magnato. Chi c'è? Capito, no? Chi è? Ciao Antonio! Uè, ciao! Come ti arrivo? Bene? A tu? Benissimo! Ok, fa piacere. Ciao! Bene, mi senti tu? Una bomba sei qua. 9:15 la radio 5 bella squillante. Ciao, ho sentito la testa. Ehi, bene, va bene, Bubuli. Che arrivo forte. Ah, va bene, a tu. Qualche miglioria l'ho fatta, dai. La modulazione è bella da squillante. Grazie. comunque scusate un attimino, devo fare un X, mi ascolto che mi devo preparare qualcosa perché ho già lo stomaco che sta mormorando. A dopo. E io. Ciao ciao Turi, ci sentiamo, buona carica. Buona carica a Turi. No, devo stuzzicare, non devo fare la carica, ancora è presto. Io so che ora sia. 7:27. Insomma, ci stiamo avvicinando, dai. No, come sono raccolti, no. Ha fatto venire qua mia Turia, va. Antonio sta minacciando, guerra. Avanti a chi tocca. Franco, avanti. Franco California non c'è. Beh, io. Ascolta, l'attacco com'è del Midland? È a 4 poli, c'è scritto, ma è normale l'attacco classico? Sì, l'attacco classico. Poi per gli apparati tipo 3009, cosa ti posso dire, Cobra, eccetera, eccetera, vanno invertiti i fili, vanno messi quelli di sotto sopra, sempre nella stessa posizione, e quelli di sopra sotto. E quindi bisogna di nuovo cablarlo, allora quello è modificato. Vabbè, ma è una cazzata, devi invertire il filo di su, metterlo giù e basta, e viceversa, non è che sia una cosa sempre in linea, capito? Hola Chico! Mimi, 7-9 sta arrivando adesso, guarda. Cominciamo a usare gli ormeggi. 9-5 modulati. Evo che contento. Ah no, la maschera riesce a me. Dietro riesce, via. Vai con la bambolina. Fammelo sapere se te lo prendi quel microfono. Ok, ok, io mi interessava sapere se qualcuno aveva mai collegato uno di quei microfoni a un apparecchio normale, dai. Perché io, lì c'è scritto che sono dedicati per quegli apparecchi, non c'è scritto che vanno bene anche per gli altri. È quello che mi sembrava strano a me. Eh beh, penso proprio di sì che vadano bene. Non lo so, vabbè, non è molta la perdita, però non lo so. E poi bisogna sapere se ci vuole qualcosa da 500 o da 1000. Beh, sono 500 ohm i microfoni normali e adesso controllo con l'amplificato se c'è scritto. Questi sono amplificati con l'eco. Il microfono amplificato con l'eco. Entra sul sito della Midland che lo vedi. La cosa sono il 28. Aspetta, lo cerco. Ma cosa sono il Midland, quelli gli FP, ora sono con la serie col potenziometro sopra. Sì, sì, sono quelli, sono piatti sopra, il potenziometro scorre in orizzontale, dai. E guarda, c'è anche Fusaro quelli. Ma qui sono a 9 euro, sono scontati al 70%. Nel sito della Midland sono scontati a... Non penso che Fusaro te li venda a 9 euro. Ma poi Midland non ne ha Fusaro. Sì, ce l'ha. E da Gandu, ha sempre trattato CTE e coso. Non ne ha mai trattato Midland. Ce l'ha, l'altro giorno sono andato, l'ho visto, ce l'ha nella vetrinetta di dentro. Quel Midland, quello F10, F28, non so come si chiama. Con microfonacci. Ah, quelli lì sono... No, mamma mia, chi si lo so della Midland? Che cosa sono? Midland delle fritte. Con microfonacci quadrati brutti. E ho capito che c'hanno il cursore giallo. No, no, no, quello è ZG. Il Midland c'ha quello bianco. È bianco, vede, rimane grigio, un po' grigiastro. Però l'F10 usciva bene. E c'ha quello lì, mi sembra che viene a 25 euro. Ma qua li stanno dando scontati, costano poco, capito? È la spedizione. Fra spedizione quanto si paga? Non lo so, io devo guardare bene. Adesso provo se trovo di nuovo il sito, perché mi ha fatto su Facebook me. Ah, ho capito. Minimo vengono 10 euro microfoni e 20 euro di spedizione. Adesso provo a cercare, dai. Io me la sento, se vi ordino. Ma chi è l'altro amico? Gabino? E io. Attento Gabino, mi senti Antonio? Ciao Antonio, buonasera, sì. Buonasera anche a te. Ho alzato l'antenna, Scusa Antonio, stavo guardando una cosa, puoi ripetere? Detto, sono levato un po' l'antenna, allora mi senti? Sì, non ti sento altissimo, però riesco a sentirti. Hai messo l'antenna fuori? No, era fuori, ma l'ho salita di un po'. Sì, va bene, dai, va bene. Piano piano, la metti sopra, la piano la metti sul tetto. Poi io via. Già compreso, sto uscendo. Ah, già va bene, la tua voce è grossa. È positivo. positivo, poi ha un po' di dolore, un pochino di dolore. Comunque queste cose qua da internet sono una mezza fregatura, perché quando mettono queste offerte si abbassano i 5 euro, abbassano i 5 euro, i 7 euro, ma poi ti scippano con la spedizione, perché la spedizione è impossibile che sia gratuita e ti viene quanto comprare il negozio qua. Però se hai qualche problema prendi e sai dove sbatterti la testa, in quel modo di là devi rispedire, mandare, qua è un casino. Ma qua non si trova nulla, cosa compri qua? Ricevitori non le trovi, tutte queste cose qua non le trovi più, qua ci sono quattro cavolate che non sono manco belle, non sono una roba che a me piace. Quindi da me, perché sono sempre, qua trovi un buon usato, qua trovi usato, magari se è buono, mi guarda, ho messo io in vendita l'Icom, il ricevitore, se lo vuoi, è su subito. Cosa hai messo, Gavi? Il ricevitore Icom, da 25 a 1200, completo di antenna. No, io adesso il prossimo passo che faccio, mi compro un HF, così ricevo e trasmetto pure. Lo vuoi il mio, l'Icom? Ma giusta qua. Dopo che lo aggiusta. O altrimenti ti conviene prendere il tuo auto e prendi un 440 o un 450, o altrimenti un 940 o un 950, rispendi una volta e basta, se lo trovi buono. Solo dice Massimo Bulldozer che l'ho visto, e c'era bello, è bello quello 240 che sta dando lui. E vabbè, vediamo un po', dai. Adesso ho speso e ho anche l'assicurazione a pagarvi questo mese. Vediamo un pochettino, dai. Non ci penso comunque, Gavi. Per quella questione dell'antenna sto ricevendo tutto con quella del baracchino, quindi non mi interessa più, perché ricevo già tutto con quella del baracchino. Ma bene, però, i 920 segnali, 910, tutti bene li ricevo. Sì, anche io qua li ricevo bene con la Grazioli. Non ho problemi. Infatti adesso mi ordino un'antenna longilive, quelle 42 metri sono, quelle antenne un filo con un balum, e quando mi arriva l'Icom lo uso con quello, perché non so se vendermi l'Icom e prendermi, diciamo, per la 27 usare un 4, prendere un 440 o un 140, e per la HF usare questo qua. Quindi oppure mi tengo l'Icom, perché quell'Icom adesso lo sta facendo tutto da zero, lo sta facendo, non sta riparando solo il guato, lo sta tutto riallineando, con tanto di documentazione l'avevo fatto. E quanto dici se travaglio? Già, quello che esce, però quello è una radio che ha messo a posto così, con la garanzia Bianconi, non la vendi meno di 600 euro. Cioè viene quelli a 300, 250, 300, è una radio che vendi 600 euro occhi chiusi. Per chi se ne intende, per chi ha soldi per comprarla, perché poi trovi ciarlatani che stanno a tirare il prezzo, e allora lì la vogliono a 300 euro, 350. Il 738, come il 738, quello un po' più grande del mio, lo stavo dando 850 euro, con la radio mia valutata è 600 euro in perfette condizioni. Vabbè, no, io, per me è troppo spendere così, non voglio spendere così tanto, magari ce le vale, capi, però no. A me così alto come prezzo non voglio spendere i soldi così. Avanti, Franco, poi fai girare. Sì, ce l'hai carta e penna, ce l'hai? Io non c'ho nulla qua. Perché allora, sono due modelli a quattro pinne, c'è il Midland F48 e F100, sono due modelli, vediamo vedere qual è quello più compatibile. E come home? Non ci sono scritti, bisogna leggere le caratteristiche dopo. Comunque sono due modelli, perché l'altro è a 6 pini, due ce ne sono a 4 pini, l'F48 e l'F100. Tutti e due costavano 42, scontati del 76%, vengono 9,90 euro. F48 e F100. Aspetta, vado a vederli, dai, poi. Adesso sta caricando il telefono, poi vado a vedere. E vedere qual è il più compatibile, qual è che va meglio, eh. Quindi poi magari possiamo anche ordinare. Intanto io controllo anche la spedizione con te. Cazzo. L'F100. È meglio l'F100? Sì, è superiore a tutti. Ce l'ho avuto. Ho avuto sia il 48 che l'F100. Sì, l'F100 è superiore a tutti. E come vanno come microfoni? Sono amplificati, sì? Sì, sono amplificati, vanno per quello che valgono e uno quando si accontenta, uno diciamo quando si accontenta di quello che spende rimane felice. Vanno bene, per quello che costano vanno bene, sono meglio degli ZG. E quindi c'è qualcosa, lo ZG lo paghi anche di più, no? A 9,90 non lo troverai mai. Se vado a Fusaro almeno te lo fa pagare 40 euro. Ah, io fra ordina di due. Ma cos'è? Un microfono, Sì, un microfono, Ma com'è il microfono a tavolo? Cosa è? Gamba. Com'è? Buono. Non lo so, ripeto, il prezzo è basso, non so se sia qualità. Sicuramente non sarà un microfono eccelso. Perfetto. No, il prezzo va benissimo, va. E ordinali che tanto per 9 euro cosa... 9 euro non ci fanno né più ricchi né più poveri, mi fa. Sì, 9,10 euro sono 9,90, adesso vediamo un po' quanti la selezione. Via da Baruburo, no? Guarda, vede. No, sono sul sito della Midland, o Antu. Ora è buono, c'è un dual mic, cos'è? No, un dual mic è buttato. E il dual mic è scontato a quant'è adesso, vediamo un po'. È sceso anche quello. Allora... mi sembra 77 dual mic è sceso. Sì, a questa faccia 120. Ce l'ho so, io ce l'ho. Guarda a vedere fra quando si paga di spedizione, secondo quanto è ce lo diamo, anche se sono 10-15 euro di spedizione si può fare. Io il dual mic ce l'ho, era di mio padre, era. Ma si può attaccare al baracchino normale? Certo che sì. Ma non è amplificato? Dovrebbe essere per me. Dovrebbe essere, non lo so. C'è sia il filo, c'è, poi dipende quanti poli vuoi. L'hanno già predisposto. Io, il mio era 4 poli, mi sembra. Ma l'hanno tolto il capo. Che lo usavo per... cosa? Ho capito. Provalo, Anto, provalo, vediamo un po' come va. Se ce l'hai, provalo, no? Devo cercare il filo. Lo cerchi e poi vediamo come va. Avanti, Natalino, ci sei? Che è rimasto fra? Natalino mi sembra che è andato a mangiare. Sì, ma questo dovrebbe aver già digerito. Ah, qui mi dice, spedizione gratuita se spendi più di 75 euro, ma in questo caso noi non ci arriviamo. Però non mi dice quanto si paga per... adesso bisogna fare andare avanti e mettere tutti i dati e vedere un po' cosa dice, dai. Sì, se vedi che è accessibile l'ordine anche a me. Bene, comprate, buonasera. Ciao Tino, ben sentito. Ciao Tino. Ciao a tutti, sempre comprando, guardate voi. Sì, 10 euro, ciao muscolo. Comprando, vuol dire che ci sono, se no uno non compra. Oddio, ma dove sei arrivato a Usino l'altro giorno? Sono salito su con la macchina, alla chiesa, la prima chiesetta diciamo, vai. Ho visto che c'era lì e giusto per fare contenti i bambini mi sono fermato lì. Scappa. No, io sono arrivato dopo il rifornitore dove c'era il divieto, mi si è passata dalla macchina e ho dovuto fare per i pensieri per tornare fuori. Vabbè, ma poi già ce l'ho fatta, dai, un po' di pratica già ce l'ho col volante. Sono riuscito a farla uscire fuori, sono sceso in quella vista che c'è a retromarcia e poi sono risalito, ce l'ho fatta tranquillo. E sono dovuto tornare indietro perché di più non ce la facevo. Però sto facendo, vedevo che c'era sempre meno, allora fresco, andiamo alla chiesa di, aspetta che mi ricordo male. Vabbè, la prima chiesa che c'è, non al rifugio dell'Aquila, ma la prima che c'è. No, quella di Bonaria, che è ancora più avanti, invece siamo fermati un pochino prima, alla prima chiesetta, diciamo. Ho capito, sì. quando ero giovane lì andavo in crociera. Me la ricordo, così è. Ma diciamo la verità che anche se avendo lingua la salita come la seconda macchina la trova era già ghiacciata, perché ma ancora si poteva passare, io sono salito nella macchina mia, quindi non avevo problemi. Però ho visto macchine che avevano un po' di difficoltà, macchine normali, se non c'hai 4x4 o c'è il fuoristrada c'è difficoltà perché c'è ghiaccio e non attacca la ruota, c'è poco da fare, se non c'ha le catene non attacca. Ah, beh, mi ha telefonato Marco, io papà andiamo dai, che voglio vedere la neve, vi voglio fare un po' di foto, e siamo andati, dai, fa contenta. Hai fatto bene, ma veramente noi avevamo l'intenzione di partire stamattina presto, ma poi mi sono sentito come sorella, dovevo portare la figlia, e poi la troviamo, se c'è lì sono la mattina partiamo, invece è andata bene, dai, ciao. Però mi stiamo facendo anche nella strada di Campovara, bloccata la strada. Dino. Ciao Ravini. Dino. E quindi non ce l'abbiamo rischiata. Vabbè, comunque è andata bene lo stesso. Me l'ha visto, a posto. E anche io gli ho portato la bambina di lì nella strada in Ulvi. Si è divertita un pochino, dai. Dimmi. Prendi quello, si è divertita un pochino. Però ho trovato buono, c'erano i mezzi spazi sale. E niente. È andato tutto bene. Sì, aspetta, io allora diciamo che andando verso Ulvi sì c'era il sale, infatti peccato non c'è il neve qua. Perché stavamo andando Ulvi? Perché una mia cugina di Sennori ha fatto un video e l'ha pubblicato, e lei a Sennori aveva sotto la Ulvi, quindi dice che è fatto bianco, e forse insomma sì, ce n'è troppo. Invece andando da parte di Uso verso Ulvi non ce n'era, allora sono tornato indietro. L'ho trovato, è andata bene, dai. Ma oggi dice che non ce n'era più. Non lo so già, oggi ha scaldato molto e quindi suppongo che l'ha sciolta. Sì, poi stavo prendendo il sole. Io, vabbè, quando stavo tornando stava nevicando, quando stavo ritornando indietro stava nevicando, infatti a Marco ho detto io che andiamo prima che fasi nevi voci e non ridurremo più a casa. E siamo partiti di nuovo e stava nevicando mentre viaggiavo, però l'ha fatta per un po', poi ha smesso. Beh, però si è entrato Natale. Io non ascolto, e poi Franco, avanti, dai. Sì, sto andando avanti, forse sono sui 9-10 euro di spedizione già. E allora, sono 20 euro in tutto, mi fra, cosa, non stavo pagando nulla. E che microfono è già? Un microfono da Palma amplificato, della Midland, e li stanno dando con gli sconti, capito? Lo stanno dando 9 euro il microfono. 9,90, 10 euro, dai. Microfono amplificato dalla Midland, e qual è? Quello quadrato grande? Dovrebbe essere Midland F100, oppure c'è l'F48. Ho capito, io per mare ben poco, non mi interessa. Sei il contrario di me. Cosa ti posso dire? Mi è più comodo, dai, mi è più comodo con la tavola. A te va bene, ti viene più bene per le condizioni in cui moduli, perché tu per amare sei stanco, ti sdrai, ce l'hai, tiri la mano e vai. Sì, è vero. Posizione e mandrulia. E vabbè, no, ma adesso già sono attivo abbastanza, sto già camminando bene, grazie a Dio ho portato anche il cane giù e quello mi aiuta molto, perché il cane tirando mi ripristina la muscolatura. Ti fa una sorta di fisioterapia, va bene. Quindi stavo zoppicando, quando sono andato a fare la visita mi ha detto lei è bravissimo che si è fatto la fisioterapia da solo e ha riacquistato tutti i movimenti, tranne che manca la ciliegina sulla torta, che perché zoppica un po' e dovrebbe fare ancora un po' di fisioterapia. E ho detto sì, voleva ricoverarmi 12 giorni e tu avevi andato. No, allora io non già stare lì dentro non sopporterei. Una cosa, Nico, se vi dovesse capitare qualcuno che vi vende un iPhone 12, me lo fate sapere. Cappa. Perché hanno fatto un furto da un campo di calcio e quindi hanno fatto un po' di telefoni, chiavi, soldi, documenti, scarpe, un po' di tutto hanno fatto, quindi stiamo cercando se vediamo di trovare una cosa. Ascolta, è dove? Cosa state cercando? Un iPhone 12, quello di mio figlio. Guardi, diciamo che ha girato mille forze dell'ordine per non sono più quello che facevo una volta, non lo puoi trovare se non è acceso e tante altre cose. Perché è bloccato da remoto? Se capita, se sento qualcosa già ti faccio sapere. Ma dal campetto te l'hanno preso, dove te l'hanno preso? Dal campo di punti, c'era una partita di punti, la teoce, al secondo tempo solo ragazzi sono andati allo spogliatoio e praticamente sono accorti che hanno rovistato una loro sacca perché erano trovate rivoltate e vabbè. Tornando indietro non si sarebbe lasciato il telefono, però vabbè, sono cose che devono succedere per quanto riguarda la società, perché è tutto raro, visto e considerato che essendo ospiti dovevano avere garanzia di non lasciare queste cose qua, invece la porta era una volta, quindi era accessibile un po' a tutti, capito? Allora, Tino. Le porte del spogliatoio andrebbero sempre chiuse. Wow, porca miseria, ma intanto non se ne ma intanto ovviamente se l'hanno preso, cosa se ne fanno? Niente, perché non lo possono rivendere, tu adesso vuoi il telefonino è bloccato, non lo possono usare, non lo possono rivendere, non possono fare niente, è solo il dispetto, è solo un dispetto quello là. Sì, infatti l'hai bloccato. Sì, ho fatto, vabbè, già, io un po' di conoscenza ce l'ho, quindi ho fatto un po' di richieste anche alla polizia postale, alla polizia locale, ai carabinieri, alla finanza, e tutti hanno dato la stessa risposta, perché prima facevano, la polizia postale lo faceva prima, però l'hanno sospesa perché dietro c'è un costo, quindi diciamo che non posso intervenire, non possono fare. Nel caso il telefono dovessero utilizzare anche un'altra scheda, allora io lo posso rintracciare, quello sì. Però se loro non lo accendono, oppure se lo accendono e lo spengono, a me mi arriva un segnale dove mi dà un ampio raggio d'azione di dove il telefono, però può essere anche un chilometro dove è, capito? Se vado alla zona ma non so dove è il punto, perché la posizione in cui l'ho messo io si può sbagliare di 1 o 2 metri, non di più, capito? Ho capito. Che bastardi, guarda, tutte le trovano per i momenti giusti. Una volta stavo facendo servizio d'ordine al palazzetto dello sport e praticamente il DJ ha annunciato che era stato trovato un portafoglio e a un certo punto questo ragazzo ha alzato il braccio e ha detto: ascolti, io ho preso il portafoglio, non è che me lo può passare. Io ho preso, gli ho detto: guarda che ho trovato quel ragazzo che ha preso il portafoglio, me l'hanno dato, io l'ho dato a quel ragazzo, e invece non era lui, capito? Lui era un ladro e basta. Sì, vabbè, vabbè. Lui giustamente lo diceva, vabbè, tu cosa c'è dentro? Cosa? Fammi capire se il tuo o meno, no, io te lo do tranquillamente. Ma proprio dal momento che tu rubi un telefono, che sai già che non te ne puoi fare niente, perché la prima cosa che fanno le persone lo bloccano e lo mettono sotto controllo, ma poi una qualcosa che non puoi utilizzare, non puoi rivendere, che cazzo lo prendi a fare? Non so, vabbè, saranno tossici, non è che sei agente, saranno tossici sicuramente. Guarda, il mio dubbio non è dei tossici, perché come sono andato in questura mi ha detto, ah sì, quello è quello, ti mando una foto, ti ha detto sì, è questo, te lo faccio vedere, e invece poi una cosa, ma tutti non è quello, perché è ancora dentro? Quindi vedi, sono cose che sono supposizioni. Io penso invece più che altro è una cosa organizzata anche dai ragazzi della squadra dei punti, perché sapendo che gli altri erano impegnati potevano interagire quando e come volevano, capito? Perché lì c'erano due ormai di persone con battuta, con la borsa della squadra, quindi potevano entrare e uscire, nessuno ti si accorgeva, ti diceva niente, capito? Ti diceva, oh, tu dove stai andando? Non vai a guardare una cosa del genere. E chi lo sa, sono sempre su posizione, non siamo sicuri. Non bisogna fidarsi più di nulla, gli stipetti dovevano farli con la chiave, chiuderli, e la chiave magari dalla al padre o che cosa, poi quando ritornavano aprivano lo stipetto e prendevano la roba. Questi stipetti aperti così, è normale che succeda. No, ma non si parla di stipetti già, si parla di una porta dove entrano gli attrezzi per andare nello spogliatoio. Questa porta qua però, siccome è situata all'esterno del campo, diciamo, dietro a spalle del campo, dove c'è i parcheggi, è risultata aperta, al contrario doveva essere chiusa, o quantomeno ci doveva essere una persona, sapendo le condizioni della porta, una persona che faccia da guardia lì, oppure quantomeno avvisare e dire ragazzi non lasciate niente di importante, di valore, perché qua è accessibile a tutti. A quel punto il ragazzo sarebbe convinto di ma andiamo in sacca, perché qua può entrare chiunque, capito? Invece siccome sono cose che nei campi non succedono mai, perché le cose sono sotto chiave, a questo punto io la responsabilità la rimando alla società. Dovevano prendersi, certo, dovevano mettere qualcuno oppure chiudere la porta, vabbè, sempre una sicurezza dovevano darla in qualche modo. Io pensavo ci fossero i stipetti per mettere le borse, le sacche, e vabbè, comunque. Mi sa che campo è quello lì, della Villa? Sì, quello che da la Villa, quello che da centro carne verso i punti. Sì, ho capito qual è il campo. Che poi c'è l'incrocio di fronte e si va verso la 131. Sì, ho capito qual è. Allora, così. Gavino. Sì. Guarda, intanto la denuncia è giusto farla perché è una frase, però non fanno niente. Non fanno niente, a me io stavo acquistando dell'attrezzatura e mi hanno truffato 700 euro, capito? Mi hanno truffato un po' di qualche soldino, sarà un anno fa, due stati fa. E ho fatto denunce, contro denunce, perché sono sempre 700 euro. Non ho risolto niente, mi perdi. Non hai capito che è un favore ladri, è tutto un favore ladri, non c'è niente da fare. E quando succede così hai l'amaro in bocca, perché dici ma io qui tutte lo faccio, però non... casotto. È un casotto tra virgolette, perché se le cose le fanno in regola non è un casotto, perché a quel punto ti ripeto, io non la colpo la società, perché dal momento che noi siamo ospiti, noi tra virgolette attriti, dai, sono gli ospiti, gli ospiti vanno portati differentemente da come sono stati trattati, quindi non c'è niente da aggiungere, dai. Ah, quindi vabbè, tutti puoi rivalere, loro hanno un'assicurazione o no? Questo è un punto interrogativo, io non lo so, hanno un'assicurazione oppure no? Come trovi così? Non lo so, diciamo che non lo so, ma credo che non, la società non voglia togliere un bicio di nuda, perché non si vuole prendere la responsabilità, magari che adesso. Non lo so, non credo, però a quanto fatto, dice l'avvocato, ci sono le basi per poter fare la denuncia e poi vedere un po' come esce fuori. Naturalmente dobbiamo essere tutti quanti uniti, nel senso che essere tutti d'accordo per fare la denuncia, dopodiché si vedrà cosa esce fuori. Vabbè, comunque tu fa la cautelativa, non stare di lì a ascoltare cosa, tu la fai al... non ti preoccupare, già... perché mi ha dato questa cosa? E la fai e ciccia, non a tutti i dini. Forse non hai capito, io sono stato forse il primo a fare denuncia, perché poi dovevo andare a lavorare, quindi sono andato un po' presto, che sono amico che ho potuto andare, mi ha accolto lui, mi ha fatto il mio cosa caffè insieme, tra una cosa e l'altra, poi appena aperto l'ufficio ero il primo. Ma davvero che quando ho finito io, sembravo io, ma sono stato 2 ore dentro, mi lavora, 2 ore, ma erano per le 11. E quando ho finito io c'era la fila di quelli che come me dovevano fare la stessa denuncia. E poi comunque lui è successo, vi siete, andate a luna. E vabbè, ce ne andiamo anche alle 4 del mattino, poi la denuncia la facciamo. Non sono problemi loro. Io hai fatto bene chi ha fatta. Non ti preoccupare, già sono pagati pavissimo. Però dispiace perché vedi, sono ragazzi che magari vanno a divertirsi, trovi la pecora nera e rovina tutto. E magari anche un esterno, è un esterno che ha preso durante la partita, è andato e ha fatto il colpaccio. Però ha fatto un colpaccio da niente, perché guarda, faceva prima rubare un paio di scarpe che a rubare il telefono. Ma già ho conosci Burum. Certo. Sì, provarsi. Vabbè, ma io non so se lo conosco. Vabbè, già ne conosco gli altri dei punti, però. Di quell'età magari un po' meno. Ripeto, non fanno niente, sì, forse capirà detto bene, è meglio rubare un paio di scarpe, una giacca, una tuta, soldi, perché giustamente qualche uno ce l'aveva i soldi, ma hanno preso il telefono, sai, molte volte vizio anche mio, di mettere che adesso 10, 20, 30 euro, 50 euro nella custodia, ma era una cosa per quello, ma è più tardi non controllo. E già ribassa, non vanno avanti facendo queste cose, io se avessi la cosa che avevano guadagnato invece andare a furare la baida, Gesù Cristo come siamo ridotti. Io quando ero ragazzino stesso facevo calcio, ma avevo comprato questo orologio, non è un orologio costoso, l'ha comprato un affare, bisognava comprare con 30.000 lire, però era un orologio bello, c'aveva la stessa cosa nei campi della Turritana a Porto Torres, Turritana, i quartieri riuniti. Era entrata gente di lì e aveva fatto una massa, alla pure l'avevano visto la riera e l'avevano risato, l'avevano rigato, un po' raggiunto gli spogliatoi, non avevano fatto niente perché era una persona un po' disagiata, queste cose qua, e poi gli hanno detto qua porta la roba a posto e niente, la prendiamo come una ragazzata, come un'altra classe. E così aveva fatto e ci aveva portato tutto. Provare a chiedergli alle buone alla società, magari loro lo sanno chi è la pecora nera che ha fatto le cose, loro è di Gerusalemme. Poi che per un saluto? Avanti. Ma sai, c'è già lui, c'è la vino, c'è anche a Tino, tanti saluti per tuo figlio, auguri per tuo figlio che passa la giornata di scuola. Secondo, noi il primo, c'è il nipote, il giocatore veloce, e sono spariti tutti tra il portiere. E mi sta dicendo, ginocchiere qualche altra cosa, io la compro alla società, perché gli spogliatoi vanno chiusi, oppure ci vengono una persona, non gli hanno mai restituito nulla, assicurazione che c'è è per me una assicurazione fasulla, perché se bambino si fa male, tutte le storie di cosa, l'ospedale, le barre di Busciacca, è una assicurazione fasulla. Ok, riprendi Tino, io chiudo che è stato un saluto solo per questo, avanti Tino. Ciao, vabbè, cosa vuoi fare? Purtroppo è successo così, dobbiamo solo pazientare, vedere un pochino se accendono il telefono e se riesce a rintracciare. Pure magari chi lo compra, chi lo possa comprare, quello che magari sarà un sfortunato chi lo compra, perché se si mette la carta normale col suo numero di telefono viene anche denunciato per ricettazione, però vabbè, allora lo troviamo. Poi sarà lui a parlare chi è stato da venderlo o meno. Allora, lo so che sono assicurazioni così un po' all'imbrancio, per modo di dire. Va bene, ti saluto, ciao. Ciao, no, perché è la prima volta, che stai facendo roba dalla espiratoria, capito? Tutto qua. Ok, Gabriele, riprendi per me come ti lascio per un saluto, ciao a tutti, ciao. Un attimino, dai, io saluto tutti cordialmente, faccio QRT, dai, che devo portare giù il cane. Ci sentiamo, buona serata a tutti, buon continuo con SEO e grazie per la ciaramidata. Ciao a tutti. Ehi, ciao Gianni, buona serata. Ci sentiamo alle prossime, domani se coincide. Riprenditi. Va bene, ciao Gianni, ciao, buona carica, se lo devi fare, se no buon riposo, buon tutto. Alle prossime, noi Antonio Mammolo. Ciao Gianni, ci risentiamo alle prossime, ciao. E dico già una cosa, che aveva saputo Carrera, l'aveva fatto battere la zampa. Non sono molto gentile su queste cose. Cioè non mi ha fottuto da chiunque sia. Non ci vado tanto piano. Tanto tu puoi parlare così, ma se non sai chi è qui tanto male che devi far ballare la samba. Se non sai è un conto, se non sai devi solo patentare e vedere un po' se qualche cosa esce a pizzo. Io parlo di quello. Se avessi saputo chi era, tu su sarebbe avessi abbigliato. Quello era scontato. Non vanno bene certe cose. Vabbè, nel caso sentite qualche cosa, dai, se fate sapere già, so promuovermi diversamente. Gaffa. Bene, ti arrivo ti. E a voglia. Quanto? Perché ce lo sono attaccato. 9.20, con punto a 9.22 in positivo. Sì, andate. Dio. Dimmi che è. Guarda queste. Come sono da te? Perché l'altro giorno ho fatto la regolata a un strumento di questa radio. Regolata come era l'altra, come abbiamo regolato l'altra volta, mi dava picchi in negativo sia diciamo lo strumento che all'alimentatore. Adesso mi sta dando tutto il picchi positivo. Dopo se mai ti mando un video di come sono le regolazioni. Niente, se mi puoi dare un confronto di radio, di segnale, è tutto, sempre con le mici 80, sempre con la relazione, 25 watt di portante bianca e 40 modulati. L'ALC, l'LC è in modulazione, non so passa la linea rossa, diciamo che è tra il 25 e il 50 della linea rossa, ma nell'LC, capito? In modulazione. Secondo te il MacGill lo posso sollevare ancora un pochino o devo passare? No, lascia così, perché io... tu stai facendo 9.30 con picchi positivi a 9.35, la modulazione è abbastanza amplificata, per la modulazione che tu se lo alzi vai a distorcere, secondo le mie orecchie. Quindi lo posso abbassare un pochino anche? Ma io l'ho lasciato così perché va bene, se lo vuoi abbassare abbassalo, ma avendo la voce molto grossa, se tu lo alzi tendi a rovinare la modulazione. No, l'ho abbassato un pochino addirittura, l'ho abbassato adesso. E niente, sono a 20 centimetri dal microfono. Infatti così ha migliorato. migliorato un pochino, ha migliorato. Poco fa ieri forse quando c'era molto acceso, stiamo tenendo a tirare ancora di più. No, no, così va bene. Guarda, l'ho abbassato un altro po', adesso è alla terza, tacchetta, guarda, adesso è a, diciamo, 9:15, capito? Adesso è 9:15, giusto, E Mickey Gain? Sì, va bene. Sì, sì, Mickey Gain. No, il PVR al massimo è il carrier, è alla, diciamo, tra il 2 e il 3. E il delay è alla seconda tacchetta. È la cosa giusta che ho trovato, installando picchi di modulazione anche all'amperometro di... Ora arriva anche a 12 ampere, 12 ampere in trasmissione di picco, e mi va bene così. Non mi interessa la radio sia chiara, non distorta, mi seguite? Sì, allora lascio così, guarda, io di lì invece c'è la manetta, adesso provo ad abbassare e fare la tua regolazione. Aspetta, così è la seconda tacchetta, Rassi. Qui è la seconda tacchetta. Non so se è cambiato qualche cosa. Sì, non ti dà, diciamo, non ti dà quel picco brutto, mi segui? Non ti dà il picco brutto di voce. Lascialo così, non ti dà il picco, non ti, in pratica ti dà la continuità, diciamo, ti dà la dinamica della voce, sempre quel tono di voce, mi segui? Non lo so, quando l'ho preso era regolato così, l'ho lasciato così, uno, due, tre, adesso provo a aumentare, vedere se cambia qualche cosa, non penso, perché così è a mezzogiorno, guarda un po', uno, due, tre, ha cambiato qualcosa, capito? Ha cambiato qualcosa nel segnale, sì. Allora, nel segnale qua mi sta arrivando 9.35, quando appena sei entrato, ti stavo guardando, 9.35 a picchi positivi a 9.40. Col delay alla seconda attacca eri sempre 9.40, sempre 9.40 o qualcosina di più. Col delay alla seconda attacca. Così invece a mezzogiorno, guarda, come ce l'ho adesso, ti faccio un altro passaggio. Così, non te lo dico, è cambiato. È cambiato in peggio o in meglio? Così è cambiato in peggio. Così è cambiato in peggio. Quando era mezzogiorno eri 9.40 a picchi poco positivi. Ecco, guarda invece così, 1.3, prova di modulazione, e poi ti conoscerò. Così non è cambiato nulla. Non ho visto alcun cambiamento. Fai un passaggio e mettilo a mezzogiorno. Allora, così è come mi hai consigliato tu, 1, 2, 3, prova, adesso ti faccio un po' di bianco. E così invece a mezzogiorno. 1, 2, 3, prova la modulazione, ha cambiato. Prima di metterlo a mezzogiorno avevi picchi positivi. Prima di metterlo a mezzogiorno avevi picchi positivi. Sì. Guarda adesso. Ora. Vabbè, no, dovrebbe essere positivo sempre. Adesso così diciamo che a mezzogiorno lei prova a farlo. Adesso sei 9.35 a picchi positivi, prima eri 9.40 a picchi positivi. 9.40 a picchi positivi, pochi picchi, avevi lo smitterino rosso, il trattino rosso stava un po' lampeggiando verso il positivo, adesso è 9.35. Adesso l'ho abbassato, ho rimesso col delirio, ho capito cosa che fa, comunque, così a 2, è posizionato a 2. Come ce l'ho io? In pratica il delay, cosa succede? Quando tu alzi la voce, no? Dovrebbe andare la voce a saturare, mi segui, se c'è troppa amplificazione. Quindi il delay succede che sotto una soglia, quando tu parli per esempio piano come sto parlando io adesso, per esempio il segnale è la radio, non va, non ti dicono, ti manchi un po' di radio. Ti tiene sempre per quella modulazione costante, sia per esempio a meno 20 dB B, capito? I picchi di modulazione, di voce, il delay, se tu lo metti altissimo il delay prende e non ti fa dare la modulazione, in pratica fa quando tu urli non si sente lo sbalzo della voce, ti fa andare sempre la voce costante, capito? Quindi vabbè, ci consiglio di lasciarlo così, come ce l'abbiamo adesso praticamente. Sì, Tino, lascialo a 2. Io forse da 30 avrei abbassato anche un po' il Mac Gain, se lo puoi abbassare. Un po' il Mac Gain l'avrei abbassato. Eccolo qua, ha abbassato anche lui. Se è troppo potente non va bene. No, non ho trovato alcuna differenza. Adesso, con le 3, forse senti anche il vento, però. Adesso l'ho passato di 2 tacchette. Abbassa. Che cavolo, guarda un po', questo è, ce l'ho quasi a 2. Adesso ce l'hai, adesso è la tua voce, sì. Adesso è la tua voce, non è la voce distorta. Adesso è la tua voce. Un pochino più bassa di radio, cioè la radio è sempre bella presente, però non è distorta, è una voce, proprio una voce bella. Vabbè, allora diciamo che la lasciamo così, dai. Tieni presente che sono a 50 cm dal mic. Allora avvicinati appena, no, tu ti devi mettere comodo. Se tu sei comodo a 50 cm, ti rimani comodo e si fa la regolazione a quei volumi lì. Secondo me è così, per quanto riguarda il mio orecchio, cioè io ce ne ho ritrovato tanto a fine, sento un bel po' di roba. Quindi, sì, le ventole le sento, però non sono fastidiose. Ma adesso la tua voce è bella, bella, sì. Sì, l'ho lasciata così a 50 cm, anche perché mi viene meglio a modulare con il braccio steso mentre faccio altre attività. Lascia così, Tino, va benissimo. Ciao a Fabi. Ciao a tutti, dai, io sono in QRX e non posso parlare. Ciao a Natale. Qual controllo che mi dovevi dare? Prometto, quanto? Sì, 9.20, compiti positivo 9.25. No, Natalino. Mi arrivi 9.20 qua. Già va bene, da. Abbiamo fatto una miglioria. Sì, capito, il mic ce l'ho quasi 2.5. Sì, ce l'hai come me, hai la stessa regolazione mia, però tu magari hai il carrier un po' più alto. Io ce l'ho a 2.5 il carrier lo stesso. Andare là. Vabbè signori, dai, ne approfitto ora che ormai che adesso mangio una cosa e poi che preparo la roba per domani, sennò non avrei più voglia. Sì, anch'io adesso chiudo che mi preparo anche un po' di roba e che domani la giornata è un po' così. Ci devo uscire presto, dai, ne faccio un po' di cena. Dai, ciao Tino, dai, piacere averti ascoltato, dopo ti mando un video di come l'ho arrivato io, così ti vedi anche come sale il, diciamo, l'amperometro dell'alimentatore. E, dai, speriamo si risolva per tuo figlio, per i suoi compagni, e le mani secche a chi aveva fatto i fibrosi. Dai, buona serata a tutti, ciao Antonio, ciao Tino, ciao Natalino e gli eventuali ascoltoni e chi ne frequenta. Gavino saluta al 27075. Buonanotte. Ciao Gavino, ciao Tino. Se dovessi sapere qualcosa, io ti avviso subito, non ti preoccupare. Va bene, già ce l'hai tu, il mio numero, c'è problema. D'accordo, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Gabi, dai, già lo guardo dopo il video, così almeno mi ha rotto un pochino e vedo un po' se ci sono dei cambiamenti. Ciao, ciao Natali, ciao. Ciao Anto, ciao. Ciao, sì.